Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccoci di nuovo insieme anche questa volta per una puntata monografica. È una puntata per la quale sentivo una specie di debito, insomma, di dovere, di imperativo morale. Una puntata monografica legata a ciò che mi permette, permette a tutti di continuare a parlare, di conversare, di comunicare tra di noi, di significare il mondo anche, di nominarlo. Che cos'è? Che cos'è? Potrebbe essere un indovinello, La lingua italiana. Vogliamo sapere un po' lo stato di salute della nostra lingua e ciò che ci permette davvero di entrare in comunicazione con gli altri, con il mondo, la lingua in genere, a seconda delle varie lingue che ci sono nel mondo. Noi occupiamoci della nostra amata lingua italiana, quindi tutta una puntata dedicata all'italiano. Del resto non si dice forse lingua madre, no? La lingua madre naturalmente per quella che abbiamo imparato da piccini, ma questa simbologia anche della lingua madre come qualcosa che genera, che ci genera, che generiamo, è tutto un intreccio, insomma, estremamente complesso e molto profondo, di cui vorrei occuparmi oggi naturalmente con una serie di luminari che sto per presentarvi, signore e signori. Valeria Della Valle, eccomi, cara, eccomi Valeria, pronta, che sempre mi accompagna e non ci sono più le mezze stagioni, verso la fine della trasmissione con lei facciamo un'analisi, le fa un'analisi della parola della settimana che le sottopongo ogni volta, non ci sono più le mezze stagioni. Oggi invece ci sarà dall'inizio con noi Valeria, con la sua competenza, con la sua bravura, docente di linguistica italiana dell'Università La Sapienza di Roma. Ci dirà un po' a viva voce, in modo più dispiegato oggi, Valeria, insomma, come sta la lingua italiana, i suoi aspetti. Sono talmente poi complessi e tanti anche, no, gli elementi legati a una lingua, che avremo poi modo, almeno per un'oretta appunto, di parlarne. E poi c'è, che ha scritto poi diversi libri con Valeria Della Valle, che ricordo Valeria Della Valle ha diretto anche la nuova edizione del vocabolario della lingua italiana Treccani, unica donna, non sbaglio, Valeria? Non sbaglio. E questa è una cosa fondamentale. Cosa fondamentale, perché finora la lingua è sempre stata un po' gestita, come tante altre cose, diciamo un po' di potere dagli uomini. Valeria Della Valle è la prima che ha diretto appunto un vocabolario della lingua italiana. Poi c'è Giuseppe Patota, che con lei ha scritto anche diversi libri, per esempio mi viene in mente uno degli ultimi sul congiuntivo. Giuseppe Patota, benvenuto. Eccomi. Buonasera. Professore di storia di lingua italiana all'Università di Siena Arezzo, direttore scientifico del dizionario Garzanti della lingua italiana. E poi abbiamo Giuseppe Antonelli. Benvenuto qua, anche buonasera. Giuseppe. Insegna linguistica italiana all'Università di Cassino. Anche lui ha scritto diversi libri, l'italiano nella società della comunicazione. E poi l'ultimo vorrei citare, che è anche molto originale, Ma che cosa vuoi che sia una canzone, no? In cui ha analizzato i testi di 1000 canzoni, le più vendute degli ultimi 50 anni, proprio per ricostruire mezzo secolo della nostra lingua, anche attraverso, pensate appunto quanti sono gli ambiti, anche attraverso appunto la lingua, le canzonette. E poi faccio quasi un inchino nel salutare il professor esimio Francesco Sabatini. Professore, buongiorno, ma si risparmi lì, con questo caldo. Che mi ha accompagnata per tanto tempo in diario, trasmissione di qualche tempo fa, fisso con una rubrica che ha coinvolto tanti ascoltatori nei dubbi, nelle curiosità legate alla nostra lingua, che hanno dimostrato e dimostrano sempre gli italiani una grande passione, magari non sempre una grande competenza, ma a maggior ragione la voglia e la curiosità di saperne di più. E presidente onorario il professor Sabatini dell'Accademia della Crusca. Bene, ora che abbiamo fatto tutti i saluti e convenevoli, naturalmente anche Sabatini ha scritto molti saggi, io direi di iniziare in modo solenne, di fare un omaggio alla nostra lingua, che nello stesso tempo anche alla nostra patria. Non so se i miei ospiti si sono per caso alzati in piedi, già mi figuro il professor Sabatini ritto nella sua alta figura, professore. Ma bisogna essere soprattutto ritti nella coscienza. Non è certo quando passa una bandiera o suona l'inno, io dunque mi trovo, mi metto sull'attenti così nascostamente, cioè non nascostamente, ma insomma senza fare esibizioni di questo genere. Ma sapere che cosa significa un inno, un simbolo, è molto importante, come sapere che cos'è la lingua. Professore, che cos'è la lingua? Lei è presidente onorario dell'Accademia della Crusca, quindi del massimo organo, diciamo, che si occupa e salvaguarda anche la nostra lingua. Come sta l'italiano? Se dovessimo fare una domanda quasi da dottore, no? Dottore, come sta la lingua italiana? Intanto, se mi permettete tutti, una precisazione sul termine lingua madre, sì, che molti usano proprio per questo desiderio di ricollegarsi a una madre, ma attenzione, lingua madre non indica la lingua materna, perché è più appropriato dire materna, perché è quella che riceviamo dalla madre. Si vuole anche dire che questa lingua fa un po' da madre alla nostra esistenza, alla nostra cultura, capisco che ci sia questa ci orienta nel mondo, è un modo è di giocare. Lingua materna, oppure bisognerebbe dire, calcando sul tedesco, madrelingua, perché la lingua madre è per esempio il latino, che è lingua madre delle altre lingue. Vi permetto questa precisazione perché permette di fare tante riflessioni. Lingua materna, quella che ci viene di solito sostanzialmente dalla madre. La lingua madre è quella che è madre di altre lingue. Ma vengo alla sua domanda, qual è lo stato di salute? Direi dipende dallo stato di salute della cultura e della coscienza civile di chi la parla. Perché la lingua di per sé non si muove se non ci sono le persone che la parlano. Capisco che è una metafora lo stato di salute della lingua, la accettiamo questa volta. Non certo, ma anche perché ricordo... Ma dico che sì, dobbiamo pensare a chi la parla, che il livello di capacità di riflettere sull'importanza della lingua, quindi coscienza civile, e anche tipo di educazione, di formazione culturale ha ricevuto, e da questo dipende poi tutto il resto. Perché mi pare, professore, di ricordare che lei ha scritto anche diversi anni fa, parliamo di più di 20 anni, di una nuova varietà dell'italiano, definita l'italiano dell'uso medio, nel senso è diventata media, cioè non so se essere puristi, integralisti, non mi è mai sembrato lei da questo punto di vista, sebbene appunto presidente onorario dell'Accademia della Crusca, mi è sempre sembrato abbastanza elastico ai cambiamenti, all'evoluzione, sì, della certamente lingua. Certamente, no? Guardi, quella formula che ha avuto tanta fortuna, eccetera, perché è semplice e coglie una sostanza. La tradizione dell'italiano nei secoli era affidata alla scrittura, cioè la continuazione, il tramandarsi della lingua era prevalentemente affidata alla scrittura. La scrittura di per sé seleziona le forme e i modi della lingua. Si aggiunge il fatto che mancando la comunicazione effettiva prevalentemente parlata, venivano emarginati tutti quei tratti o molti di quei tratti propriamente comunicativi che permettono a una lingua di funzionare. La lingua di per sé è un sistema che noi possiamo descrivere attraverso gli studi di grammatica, ma quando la usiamo davvero, la mettiamo in funzione, allora sviluppa delle forme, dei cambiamenti, degli adattamenti che la rendono comunicativa. Non essendo stata molto usata per comunicare oralmente, anche per comunicare per iscritto sì, ma molto familiarmente, molti tratti di uso medio, diciamo così, esistenti da secoli, venivano considerati errori. L'uso vivo, forte, che se ne è fatto per fortuna negli ultimi 150 anni, e quindi ci ricolleghiamo all'età dell'inno anche, hanno quest'uso, ha rilanciato questi tratti fortemente comunicativi. E quindi abbiamo finalmente un italiano di uso medio, cioè adatto a comunicare più facilmente, sì, più spontaneamente, per iscritto e parlando, al di là delle forme particolari, degli usi tecnici, formali o particolarmente letterari. Professore, una presa di coscienza, sì, di una tradizione esistente da secoli, perché poi io l'ho analizzata, come i miei cari amici sanno, in tanti fatti particolari, che non sono innovazioni. Anche l'uso dell'indicativo per congiuntivo in certi casi, che abbiamo parlato altre volte, cara Roberta, nella nostra rubrica, sono antichissimi. non so adesso a citarli per non dilungarmi. Quindi quest'uso più elastico, diciamo, e più comunicativo esiste da secoli e oggi è quello che ci permette di comunicare. Bene, Valeria Della Valle, a proposito dell'evoluzione della lingua, Valeria, no? Leopardi scrive nei pensieri: una lingua non avrà più mestieri di accrescimento allora solo quando o essa o il mondo sarà finito. E mi viene in mente che tu, fra le altre cose, sei coordinatrice dell'Osservatorio Neologico della Lingua Italiana, no? In un vocabolario ogni volta, ogni quanto si aggiorna un vocabolario, no? Quei neologismi, questo, le parole nuove che nascono. Dipende ovviamente dalla mole del vocabolario, per esempio appunto quello che nominavi prima, quello della Treccani, essendo un vocabolario molto vasto, in 5 volumi, gli aggiornamenti per ora sono stati solo di decennio in decennio e solo 2, invece i vocabolari dell'uso di mole più ridotta certamente hanno un aggiornamento, ecco, ne sa qualcosa Giuseppe Patota e anche il professor Sabatini, hanno di solito un aggiornamento, un cambiamento ogni anno. Con Sabatini Coletti, sì, il dizionario. Devono rappresentare la lingua in tutti quelli che dicevamo prima, appunto cambiamenti, novità, eccetera, eccetera. Valeria, ma a proposito di neologismi, di parole nuove che nascono, mi sembra che vadano a un ritmo velocissimo, no? È colpa soprattutto forse proprio dei media, dei giornalisti, di chi lavora in questo anno? Non userei la parola colpa, anzi semmai direi che è un merito da questo punto di vista, perché se l'analisi che facciamo la facciamo come nel nostro osservatorio, proprio attraverso gli esempi tratti dai quotidiani, e in questo caso certo ci rivolgiamo a testi scritti perché abbiamo bisogno di prove, però sono testi scritti che spesso rappresentano anche il parlato di cui si parlava prima. Ecco, quindi dicevo che non farei una colpa, anzi semmai darei merito proprio ai giornalisti di questa capacità inventiva. Perché dico che è un merito? Dico che è un merito perché, siccome spesso, molto spesso, si dice della nostra lingua che per quanto riguarda il lessico o anche le condizioni generali, no? Dicevamo prima come sta la lingua italiana, ecco, si ama ripetere che è una lingua ormai finita, succubi dell'anglo americano e della tecnologia adesso, tra l'altro. Ecco, invece per quanto riguarda il nostro osservatorio, noi potremmo dire altro, e cioè che la capacità di costruire nuove parole a seconda delle necessità, a seconda dei bisogni, ecco, questa capacità esiste, le parole vengono formate in gran parte secondo le regole tradizionali della nostra lingua. Ecco allora che, per arrivare alla risposta alla tua domanda, direi che dal punto di vista della formazione di un certo lessico, che certo passa attraverso il filtro di mani buone, cioè quelle di chi sa scrivere, ecco, da questo punto di vista la innovazione c'è, è buona e sta bene. Giuseppe Antonelli, e quanto, a parte i giornalisti, no, ma quanto anche la televisione è stata una grande agenzia culturale nel bene e nel male, forse all'inizio soprattutto nel bene, poi un po' più, diciamo, degenerata per certi versi, ma quanto negli anni, quanto ha contribuito a forgiare la lingua che si parla adesso? Perché la lingua italiana, abbiamo capito, non deve essere, se no parleremo come Dante Alighieri, no? Non deve essere una cosa ingessata, ma una cosa che cambia con noi, con la cultura, con i tempi, con la storia. La televisione è stata molto importante soprattutto all'inizio della sua storia italiana, siamo dunque alla metà degli anni 50, perché ha fornito, insieme al cinema, insieme alla radio, un modello, come viene detto, non alfabetico, cioè ha consentito anche a chi non sapeva leggere e scrivere, ed erano ancora tanti nell'Italia di quegli anni, di venire a contatto con un modello di italiano che era anche meno ingessato rispetto a quello che si insegnava a scuola. E poi ha avuto importanza in un'altra maniera, in una fase successiva, soprattutto quando c'è stata la liberalizzazione delle TV private, quindi siamo ormai nella seconda metà degli berlusconiano, anni 70, diciamo. Perché ha cominciato a diventare, come diceva con una felice formula Raffaele Simone qualche tempo fa, uno specchio delle lingue, cioè nella televisione si potevano sentire tutti gli italiani, o quasi tutti gli italiani, che ormai avevano diritto di cittadinanza nella società, quindi c'era dall'italiano regionale, quello un po' così permeato di dialetto, all'italiano invece più tecnico, tecnico all'italiano, anche ancora in certe situazioni solenne. La situazione più recente mi pare quella per cui la lingua della televisione sia la lingua di uno specchio deformante, cioè c'è una tendenza a enfatizzare tutti i toni, non è più uno specchio che ci dà l'idea di quello che davvero succede nell'italiano di tutti i giorni, ma calca i toni. Pensiamo alla iperrealtà dei reality, che in realtà mettono in scena su un canovaccio scritto un italiano che dovrebbe essere quello di tutti i giorni, ma che invece finisce col rappresentare un cattivo modello per l'italiano di tutti i giorni. Tra l'altro la colpa si dà spesso anche ai messaggini, no? Alle nuove forme di comunicazione, potremmo dire un gli italiano SMS. Dell'uso media per certi versi. Però non ci dimentichiamo anche qui che bisogna essere un po' meno pessimisti, perché ad esempio le abbreviazioni, ecco, tu citavi prima Leopardi, le abbreviazioni nelle lettere, negli epistolari ottocenteschi erano assolutamente normali. Leopardi scriveva non tvb ma tv. Ah, davvero? Era una formula di saluto, sì, proprio così, perché stava per tutto vostro, era una formula di saluto abbreviata. E poi, per esempio, nelle date era normale mettere 8 bre, 9 bre o x bre, che stava per dicembre. A volte, qui sorprendente, infatti, a volte è sorprendente e anche confortante scoprire che certe cose che sembrerebbero a noi proprio delle deformazioni, qualcosa che degenera, un declino, in realtà sono cose vecchie quasi come il mondo, non dico come il mondo, ma più o meno. Poi, tra l'altro, sostenitore degli SMS e dell'italiano ai tempi appunto dei messaggini, dei telefonini, è sicuramente Giuseppe Patota, ma qui ci fermiamo un pochi istanti perché Roberto Scaltritti dalla parte tecnica mi avvisa che appunto dobbiamo aggiornare chi sta viaggiando. Proprio tra pochissimo siamo qua. Non ci sono più le mezze stagioni. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Sembra quasi un ossimoro su parole, soltanto parole. Che significato hanno le parole? Anche ogni più piccola parola. La lingua è, insomma, una struttura fondamentale della nostra cultura, del nostro modo di significare il mondo, del nostro modo di comunicare. Come faremmo altrimenti con i segni? Giuseppe Patota, intanto vi ricordo che sono con me per questa puntata monografica sulla lingua italiana Valeria Della Valle, docente di linguistica italiana all'Università La Sapienza di Roma, Giuseppe Antonelli che insegna linguistica italiana all'Università di Cassino, il professor Francesco Sabatini, sono tutti professori ma siccome ho dei precedenti lunghi con il professor Sabatini, prima ci davamo quasi del voi, adesso siamo arrivati a lei, piano piano insomma la confidenza ci sarà nonostante il tanto tempo di frequentazione, presidente onorario dell'Accademia della Crusca e Giuseppe Patota, professore di storia di lingua italiana all'Università di Siena, Arezzo. Giuseppe Patota, dicevamo prima, no? Citava Giuseppe Antonelli del fatto di come appunto la lingua sia cambiata anche attraverso i nuovi media, la televisione in particolare che ha iniziato già da metà degli anni 50 fino ad arrivare ai messaggini. Mi sembra che anche tu, la cosa che può sorprendere il pubblico in genere è che i linguisti in realtà linguisti e luminari non sono così integralisti, così puristi come si potrebbe pensare sulla lingua italiana. No, mi pare che tu sia un sostenitore, anzi, degli SMS, delle abbreviazioni che Giuseppe Antonelli ricordava, faceva anche Leopardi e non solo lui in passato. Ma, insomma, non è questione di essere o non essere sostenitori, è di vedere le cose per come sono. I linguisti naturalmente non possono scandalizzarsi per cose che connaturate, convivono, esistono da quando esiste l'italiano e non sono affatto delle novità. Faccio un esempio, sì. Non c'è giorno in cui qualcuno, qualche lettore, nelle lettere al direttore o all'esperto di turno non si lamenti del fatto che nei messaggini si adopera il K o la K, si può dire in tutti i modi, per sostituire il digramma, adopera una parola un po' difficile, ma insomma quella coppia di lettere CH davanti alla E e davanti alla I. Ora, questa non è per niente una novità, nel senso che, come ricordo tanto tempo fa, ricordava Francesco Sabatini in una sua lezione di qualche anno fa, ma insomma è un tratto che compare in quello che viene considerato il documento che testimonia l'atto di nascita dell'italiano, cioè il Placito di Capua, pensate, del 960 d.C. Lì il K al posto del CH è nata l'italiano. È l'ordinaria amministrazione. Aggiungo, addirittura. Sì, aggiungo un'altra cosa, che il tentativo di sostituire questa sequenza di lettere CH con il K è stato fatto da importanti grammatici a partire dal 1435-36 da Leon Battista Alberti, che è stato il primo autore di una grammatica dell'italiano, ha inventato un segno che ricordava in qualche modo la K. Ora dobbiamo chiederci, ma perché il tentativo di Alberti e di altri grammatici non è riuscito? Beh, insomma, perché quei tentativi avevano poco pubblico, la grammatica di Alberti è rimasta nascosta negli scaffali della Biblioteca Vaticana per secoli, nessuno l'ha letta, nessuno ne ha sentito parlare. Io non mi meraviglierei e non mi meraviglierò affatto se fra qualche anno, anche grazie alla complicità dei telefonini, degli sms scambiati dai ragazzi, il K dovesse sostituire il CH nella grafia dell'italiano. Beh, che succederebbe? Proprio niente. Quindi non c'è rischio di impoverimento, di abbruttimento, direbbe qualcuno, patota, della lingua italiana in questo modo, no? Legati all'impoverimento, non so, l'impoverimento del numero delle ore di lingua italiana che vengono dedicate, che vengono riservate nell'insegnamento scolastico, questi sono i problemi di cui parlava Francesco Sabatini, no? L'impoverimento culturale, l'impoverimento nella circolazione della cultura. Francamente il K non mi pare proprio un impoverimento. Quindi il K non è responsabile di eventuale, no, appunto depauperamento della lingua italiana. Evocava Francesco Sabatini, allora vorrei dedicare a Sabatini questa canzone. Un'altra. Stai lontana da sto cuore e a te volo con pensiero, niente voglio e niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta amore come so sicuro te. Oi vita mia, oi core, e chi sto core, si stata o prima amore, o prima l'ultimo sarai per me. Quanta notte non ti vedo, non ti senti in tasti braccia, non ti vaso che sta faccia, non ti stringe forte in braccia a me. Professor Sabatini, non so se gradisca, ma era un po' insomma, per introdurre i dialetti, sì, no? I dialetti, che sono, diciamo, una parte della lingua che accompagna il nostro paese da lunghissima data e che dalla comparsa, diciamo, della Lega come partito politico in Italia, la Lega Nord, ha avuto, almeno per quanto riguarda gli idiomi della parte nord d'Italia, di nuovo una certa fortuna, quantomeno sostegno, no? Si insiste particolarmente da parte della Lega Nord sui dialetti. Che rapporto c'è adesso? Cosa ne pensa lei, da presidente onorario dell'Accademia della Crusca dei Dialetti? I dialetti sono una cosa molto importante, molto interessante. Lasciamo stare le proposte di un partito politico che ne fa strumento di sua politica, non c'entra proprio nulla. Se vogliamo ragionare su che cosa sono i dialetti e che uso utile se ne può fare, dobbiamo partire da piccole nozioni, però importanti. I dialetti sono la derivazione diretta dal latino parlato nelle varie regioni, nelle varie città, nei vari paesini e nelle varie valli italiane. Quindi sono indubbiamente la fotografia per secoli di una vita sparpagliata, frantumata, eccetera, il che ha permesso a queste parlate locali di essere molto vicine alla realtà quotidiana, quindi cariche di espressività, ma legate all'orizzonte ristrettissimo della vita locale. Sono stati usati anche per iscritto e anche per fare opere letterarie particolari, ma con la possibilità di comunicare questi contenuti a un pubblico molto ristretto. Professore Sabatini, ma per riuscire, mi scusi, per riuscire a mantenere una buona convivenza, no? Qualcuno che ha paura che si estinguano, però allo stesso tempo un'unica patria, un'unica lingua, la lingua italiana, per capirci tra tutti, come si può in qualche modo conciliare? Se mi permette, sì. Se noi vogliamo caricare di funzioni i dialetti per abbattere l'unità d'Italia, questo è un discorso politico. È chiaro che sul terreno linguistico si può intervenire in questo modo per finalità di questo genere. Lasciamole, ho già detto, da parte che uso utile, proficuo, ne può fare un comune parlante. Io ho sintetizzato un po' questa questione recentemente in questa formula: i dialetti si imparano, non si insegnano. Può sembrare un paradosso. No, la realtà è questa, che proprio perché hanno una funzione legata a situazioni contingenti per quanto riguarda la vita pratica, oppure ad esperimenti d'arte a volte importantissimi, efficacissimi, soltanto quando veniamo in contatto con questa loro funzione noi ne sentiamo il valore. Ma questo non permette di insegnare i dialetti come si vorrebbe per quelle altre finalità da combattere. Insegnare significa non riconoscere che il docente, colui che dovrebbe insegnarli, deve saperli parlare bene, ma avere anche una preparazione didattica per insegnarli. E qualunque esperto locale che abbia scritto poesie o magari il dizionario e la grammatica lo sia detto, non è in grado di insegnarlo, come sappiamo dall'insegnamento delle altre lingue. Secondo, il docente può avere una origine diversa. Non sto parlando dei meridionali trasferiti dannosamente, come alcuni ritengono, al nord, ma di quello che passa da Padova a Brescia a un altro dialetto. Quindi se è un padovano, quando va a Brescia, che cosa fa? L'insegnante deve potersi muovere liberamente. Terzo aspetto negativo, ma le classi di alunni che ha davanti sono mescolate in molti sensi. Intanto ci sono coloro che vengono da altri paesi e che non hanno la conoscenza di quel dialetto, ma anche i ragazzi, ragazzini o ragazzotti italiani possono avere il dialetto in casa ed essere avvantaggiati nell'usarlo a scuola per fare i compiti di dialetto, o non averlo a casa. Ora, io penso che chi sostiene che si debbano insegnare i dialetti a scuola o non capisce nulla di questa materia, oppure ha altre finalità. Giuseppe Antonelli, come ti sei occupato anche degli scrittori delle ultime generazioni, no? Anche quindi abbiamo parlato della TV, dei nuovi media, abbiamo parlato dei dialetti, abbiamo parlato di neologismi, gli SMS, ma gli scrittori, ancora la letteratura contemporanea, insomma, no? Come influisce sull'evoluzione, allora, sui cambiamenti della lingua? Allora, ricancerà il discorso del dialetto, perché il dialetto, ben lungi dall'essere scomparso, come paventava Pasolini poco prima di morire, in realtà convive in una continua mescolanza con l'italiano. Nel parlato di tutti i giorni, le statistiche Istat ci dicono che ormai un terzo degli italiani dichiara di parlare mescolando continuamente il dialetto e l'italiano, e la prova più provata ce l'abbiamo non tanto negli studi linguistici quanto nelle intercettazioni che vediamo pubblicate in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, dove anche parlando tra persone potenti, mettiamola così, c'è un continuo rimbalzare tra l'italiano e il dialetto. Vero. Questa mescolanza si sente, per rispondere alla tua domanda, Roberta, anche nella letteratura degli ultimi anni, parlo della narrativa, perché c'è una tendenza che è cominciata proprio nelle canzoni, in particolare nelle canzoni rap, che a loro volta prendevano il modello da un album storico di Fabrizio D'André, Cresa de Ma, in cui il genovese veniva promosso a lingua della canzone, allontanandosi dallo stereotipo del dialetto napoletano come unico dialetto cantabile. Poi sono venuti i gruppi rap con i centri sociali, e quell'atmosfera lì è passata anche a certa narrativa italiana. Penso a Silvia Ballestra, per esempio, una delle ultime allieve di Tondelli. Solo che il dialetto ha avuto una serie di usi molto differenti nella narrativa degli ultimi anni. Questo, diciamo, trasgressivo lo possiamo chiamare dialetto per dispetto, è l'idea di sottrarsi a una norma considerata un po' come noiosa, polverosa o politicamente oppressiva. Senti. Giuseppe Antonelli, scusa se ti interrompo, pensavo, mi hai fatto venire in mente, no, di ultima generazione, anche se lui non è per nulla un giovinetto, ma Camilleri, no, con tutto questo successo. E infatti la funzione è tutta diversa. Siciliano. Lui, diciamo, è diventato famoso da poco, non esattamente ragazzo, è quello che possiamo definire un dialetto per diletto, cioè è una funzione molto vecchia, questa qui se la porta dietro nella storia della lingua letteraria da tanto tempo il dialetto. Pensiamo ad esempio alla commedia del Cinquecento, in cui c'era proprio un gioco di mescolanza tra dialetti. È quel dialetto che è usato per far sorridere, che è usato per rendere più brillante, più brioso il dettato narrativo. È un dialetto che non è neanche un siciliano, l'ha ammesso lo stesso Camilleri, è inventato sulla base del siciliano, ma così come Vigata è inventato a partire da un luogo reale, ma in realtà è un luogo fantastico, ed è un dialetto al quale ormai milioni di lettori in Italia si sono abituati, al punto tale che ci rimarrebbero male se scrivesse in un altro modo. Magari nel senso di anche, che all'inizio magari aveva spiazzato qualcuno e poi è diventato, magari, sappiamo tutti che significa, una dolce abitudine. Mi avverte Giorgio De Luca dall'assistenza in regia che abbiamo questa pausa, ci ritroviamo tra pochissimo. Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre insieme, parlando, disquisendo, Roberta Giordano sempre con voi in questa puntata monografica tutta dedicata alla lingua italiana. E ci sono con me Valeria Della Valle, Giuseppe Antonelli, Francesco Sabatini, Giuseppe Patota, come possiamo dire, il massimo dei linguisti italiani. Valeria Della Valle, ho detto troppo enfatica, secondo te? Per quello che mi riguarda troppo enfatica, per gli altri tre vale tutto quello che hai detto. Quello che ho ritenuto, insomma, giusto avere qui come materiale prezioso per parlare della nostra lingua. Valeria Della Valle, quindi abbiamo toccato tanti aspetti e ricordo che appunto con Giuseppe Patota, appunto, se non sbaglio, no, hai scritto questo libro ultimamente sul congiuntivo a proposito della lingua che cambia. Però bisogna dire, e poi siete tutti un po' d'accordo col dire che è giusto, persino Leopardi che citavo lo dice, che la lingua deve andare avanti, altrimenti significa che è morta e con sé è morto l'uomo, sono morti gli esseri umani. Però un pochino ci dispiace che certe formule, certe espressioni, certi tempi verbali, come per esempio il congiuntivo, un po' decadano, o no? Ma bisogna vedere se è proprio vero che il congiuntivo sia così decaduto. Si ricordava proprio prima, lo ricordava proprio Francesco Sabatini, che in realtà questa non uso del congiuntivo non è un fatto recente. Se andiamo a leggere i testi antichi, anche i testi proprio dell'epoca d'oro della lingua italiana, anche lì troviamo che in tanti casi il congiuntivo non veniva usato. Oggi forse c'è, ecco, tu hai usato prima il termine enfatico, c'è un po' il gusto a volte della enfatizzazione che riguarda certi usi che vengono ritenuti trasgressivi. Da un certo punto di vista direi che questo non è neanche un male, dimostra da parte degli italiani nonostante tutto una certa attenzione, una certa apprensione in molti casi nei confronti della propria, ecco, torniamo a quello che si dice, della propria lingua materna. Insomma, è come se tutti fossero lì attenti, un po' col ditino alzato oppure con la matita rossa e blu, attenti sempre a segnalare gli errori che fanno gli altri, quando forse l'attenzione andrebbe posta sulla lingua che ognuno di noi usa e che andrebbe usata con più attenzione, ma soprattutto, ecco, torniamo al discorso della cultura generale. Non stiamo facendo solo un discorso di tratti grammaticali più o meno osservati, ma di lingua che riesca a essere al passo con la cultura generale, se c'è, della nazione nella quale viviamo. Però Valeria, tu da linguista, insomma, raccomanderesti l'uso del congiuntivo, o si dice, siccome anche nei testi passati, testi antichi, eccetera, scrittori e grandi personaggi magari appunto non facevano un uso così a volte ortodosso della lingua italiana, si può scusare, oppure tu per istruzioni per l'uso, ecco, nell'utilizzo della lingua italiana lo raccomanderesti il congiuntivo? Guarda, ma io naturalmente e credo tutti gli amici con i quali sono in collegamento raccomandano l'uso del congiuntivo tutte le volte che è indispensabile, per rappresentare la sfumatura del pensiero e soprattutto i nessi logici che quel tipo di modo verbale riesce ad esprimere. Quando con Giuseppe Patota abbiamo analizzato il problema e studiato la questione del congiuntivo e quindi analizzato proprio i testi scritti, per esempio, o anche quelli orali, beh, ci siamo accorti che in realtà ci sono numerosissimi casi nei quali il congiuntivo viene usato a sproposito. Ah sì, quindi, molto spesso a sproposito. Qualcuno per darsi un tono lo infila quella, sì, in modo inopportuno. Viene infilato quando si potrebbe benissimo usare l'indicativo. Quindi addirittura abbiamo visto che esiste il fenomeno contrario del congiuntivo inutile, ma come abbiamo del resto scritto nel libro, insomma, un congiuntivo sbagliato fa proprio lo stesso effetto del gesso che scricchiola sulla lavagna, no? Ed ecco che è il caso rappresentativo che dicevo prima, tutti a quel punto si scandalizzano perché nessuno fa caso a numero infinito di congiuntivi giusti, tutti si stracciano le vesti appena ascoltano o leggono soprattutto un congiuntivo sbagliato, che però forse non sono in numero così alto come potrebbe apparire. Giuseppe Patota, e invece il passato remoto è proprio ormai remoto, è andato? No, non è morto, però sicuramente sta meno bene del congiuntivo. Ah. Bisogna fare una diagnosi. Beh, intanto anche qui però occorre distinguere da regione a regione e da zona a zona dell'Italia, nel senso che al sud, in Toscana, si usa linea ancora ideale che congiunge La Spezia a Rimini, in effetti scomparso, nell'italiano non è parlato il congiuntivo è una forma verbale sconosciuta, il remoto, passato remoto. Nell'Italia meridionale estrema, nella Calabria del sud e in Sicilia però si verifica il fenomeno di segno diametralmente opposto, nel senso che a Messina possiamo sentir dire da un signore che parli un ottimo italiano, possiamo sentir dire un anno fa vidi Giovanni, ma anche questa mattina incontrai Giovanni. Comunque non c'è dubbio, ecco, se devo dire la quantità di terreno occupata dal passato prossimo a scapito del passato remoto è sicuramente maggiore rispetto alla quantità di terreno occupata dall'indicativo a svantaggio del congiuntivo. Quindi, Giuseppe Patota, mi viene in mente una cosa. Io negli anni 70, quando ho fatto le medie, le elementari e poi le medie, sono incappata in bravissimi insegnanti che però non insegnavano la grammatica in modo ortodosso, anzi ne ho fatta molto poca, poi non so, per un miracolo anche per i miei genitori, per sentirli parlare in casa eccetera, diciamo che parlo una lingua abbastanza corretta. Qualcuno dice che l'effetto Strauss padre, no? Strauss è il compositore che non conosceva il padre le note musicali, però sapeva comporre musica. Cioè, se è ancora sempre necessaria la grammatica da insegnare a scuola, che spazio ha? Si insegna? Come si insegna a scuola? Ma, insomma, io direi che quello che è necessario è insegnare la lingua. Ecco, la verità è che la mia, non impressione, ma la mia certezza è che lo spazio specificamente dedicato all'insegnamento della lingua, a far capire ai ragazzi come adoperare bene l'italiano, soprattutto l'italiano scritto, beh, questo spazio è estremamente limitato. Ma insomma, facciamo due conti. Nei licei, così come sono proposti dalla nuova riforma scolastica, dalla riforma Gelmini, se non ricordo male, Francesco Sabatini può correggermi, le ore dedicate alla lingua italiana, anzi diciamo meglio all'italiano inteso come lingua e letteratura, sono, se non vado errato, 4. Allora facciamo due conti. Sì. Che cosa un professore di italiano deve fare in queste 4 ore? Beh, intanto giustamente dovrà occuparsi di insegnare letteratura o di far leggere giustissimamente i testi. Poi dovrà fare dei compiti scritti, e anche questo naturalmente è giusto. Poi dovrà fare il tuttologo, perché non dimentichiamo che l'insegnante di lettere è un tuttologo, sì, è la persona che dovrà affrontare questioni di attualità, questioni che potrebbero spaventare un sociologo di rango. E poi magari deve anche un po' fare lo psicologo, perché deve ovviamente tenere dietro ai problemi dei ragazzi. La mia domanda è: quanto spazio rimane per l'insegnamento della lingua? Non per l'insegnamento delle strutture formali della grammatica, perché poi un altro guaio è che questo oggi succede un po' meno, anche perché sul panorama e nel panorama editoriale sono comparsi molti testi di grammatica anche ben fatti, però e qualcuno meno ben fatto, come ha dimostrato il mio maestro Luca Seriani in un suo studio molto recente. Ma la verità è questa: spesso e volentieri dalla quinta elementare in poi ciò che si continua a insegnare di lingua italiana sono quattro nozioni: il soggetto, il predicato, la marea sterminata dei complementi, sulla cui utilità si può discutere molto, e basta. Cioè uno studio una capacità di porgere, di presentare dei modelli attraverso i quali insegnare ad adoperare bene la lingua parlata e la lingua scritta, pensiamo all'arricchimento lessicale, quello è sicuramente deficitario nella scuola italiana. Certo, infatti in questo senso, Giuseppe Antonelli, abbiamo ancora un minuto e mezzo prima della prossima pausa e aggiorniamo chi sta viaggiando. L'italiano istruzioni per l'uso, uno dei libri che hai scritto nel corso del tempo. Dai, due o tre istruzioni se dovessi dare così un po' prêt-à-porter, diciamo, per usare poi andare ai francesismi. Ma le prime istruzioni sono elementari, sono quelle di andare sempre a guardare quando si ha un dubbio, se si tratta di un dubbio che riguarda il lessico, le parole in un buon vocabolario, e non ne mancano, ce n'è una bella abbondanza di vocabolari dell'uso dell'italiano, e invece se si ha un dubbio grammaticale di andare a guardare in una buona grammatica. Questo non è umiliante ed è anzi pratica quotidiana anche per persone colte, per intellettuali, immagino anche per i giornalisti. L'altra questione invece, che riguarda forse anche l'insegnamento, è quella che mi pare metta d'accordo tutte le voci che abbiamo sentito fino adesso, di dare meno importanza ad aspetti microlinguistici, cioè il singolo caso di deviazione dalla norma, e dare più importanza all'aspetto del testo, della testualità, della capacità di smontare e quindi poi saper rimontare un testo. Un esercizio fondamentale in questo senso è il riassunto, perché ci fa capire se lo studente ha compreso adeguatamente, ha proprio decodificato il testo che ha letto, e può dargli gli strumenti per riscrivere un testo. Insomma, la scrittura è tornata di gran moda grazie ai nuovi media, perché anche le mail, scriviamo tutti tantissimo, però poi le statistiche invece sulla capacità degli italiani, tutti, giovani e vecchi, di leggere e capire un testo e di produrre adeguatamente un testo, sono statistiche disperanti. Dunque digitare forse non vuol dire scrivere, e dunque è importantissimo l'educazione proprio alla sintassi e alla testualità. Non ci sono più le mezze stagioni. E Roberta Giordano vi sta accompagnando ancora per pochi minuti in questa puntata di Non ci sono più le mezze stagioni, che ho tutta dedicata, quindi monografica, alla lingua italiana, con Valeria Della Valle, docente di linguistica italiana all'Università La Sapienza di Roma, Giuseppe Antonelli, docente di linguistica italiana all'Università di Cassino, Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Giuseppe Patota, professore di storia di lingua italiana all'Università di Siena Arezzo. Visto che Valeria è andata a Parigi, in Francia, in questi giorni, per studiare il francese, immagino, in concorrenza con l'italiano. Valeria, non so se dobbiamo bacchettare. Naturalmente non in concorrenza. Però sono cugini, via, in qualche modo, meglio la nostra lingua, ma anche certo. Il francese non è male. Valeria, c'è una cosa che mi sta a cuore, che sta a cuore anche a te, e mi fa piacere anche che non siamo soltanto in due. Però, visto che tu sei la prima donna che ha diretto un'edizione di un vocabolario, la nuova edizione del vocabolario della lingua italiana Treccani, la lingua nei confronti delle donne, no? C'era questo bellissimo testo pubblicato nell'87 di Alma Sabatini, che purtroppo è scomparsa molto molto prematuramente, che era Il sessismo nella lingua italiana e raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, perché la lingua in qualche modo, dicevo, significa il mondo, ci fa comunicare, nomina le cose e quindi determina anche la cultura, il nostro modo di pensare, no? A proposito anche dei rapporti tra i sessi, chi è di categoria A, di categoria B, la lingua fa anche questo, lo facciamo noi praticamente. A che punto siamo anche con quei vocabolari, no? Sì, per fortuna negli ultimi anni si presta molta più attenzione al rispetto dovuto anche linguisticamente nei confronti delle donne. Insomma, per sintetizzare in una battuta, la donna non è più definita nei vocabolari come la femmina dell'uomo. Terribile, e questo infatti credo dica un po' tutto, ecco, visto che non mi posso dilungare, questa attenzione, quella di cui parlava appunto Alma Sabatini, adesso viene realizzata. Naturalmente deve corrispondere, torniamo al discorso di prima ancora una volta, deve corrispondere alla cultura generale del paese che parla questa lingua, e quindi tantomeno la nostra lingua sarà sessista e priva di rispetto nei confronti del sesso femminile quanto la sua organizzazione, la sua cultura non avrà questo tipo di attenzione. Mi vengono in mente, sono talmente collegate, certo, che una non può prescindere dall'altra. Valera, mi vengono in mente velocissimamente due cose in particolare, no? Il fatto, il raccomandare l'uso del genere femminile, per esempio per le cariche istituzionali, la ministra, la sindaca, tutti i ruoli e le professioni ricoperte da donne, perché altrimenti sembra una gentile concessione maschile, o comunque si continuano a immaginare nell'immaginario collettivo come figure maschili. E poi parlava Alma Sabatini anche della simmetria semantica, non so, il governante è colui che governa un intero paese, la governante continua a essere quella che fa le faccende in casa per qualcuno, no? Certamente, ma infatti nell'un caso e nell'altro, ecco, nel corso degli anni la situazione è cambiata. Naturalmente nessuno di noi, credo, che si occupa di lingua e fa questo lavoro, questa professione, non si augurerebbe mai che nessuna di queste decisioni venisse presa dall'alto. Sarà l'uso generale, quindi la cultura espressa dalla nostra nazione, a decidere che a un certo punto tutti diremo, forse, oppure non diremo ministra quando ci si rivolge a una donna che svolge questo ruolo. Ecco, sarà la cultura generale, appunto, a far sì che la parola si diffonda, come del resto oramai è già molto diffusa. Grazie Valeria Della Valle, la lasciamo partire, che è lì da Parigi, presto speriamo di averla in patria. Francesco Sabatini, invece, molto sinteticamente, abbiamo gli ultimi minuti, così vorrei fare anche concludere Antonelli e Patota, i rapporti invece dell'italiano con l'Unione Europea. Mi sembra che ne avevamo parlato già tempo fa, a diario, ma ancora adesso male. Alterne fortune, no? No, vogliono farla fuori. Male, perché si è cominciato col dire che come lingua di lavoro, nonostante che tutti i trattati dicano che tutte le lingue dei paesi dell'Unione hanno gli stessi diritti anche come lingua di lavoro, poi si è detto sì, ma bisogna restringere. E per nelle commissioni, negli uffici, eccetera, e se accanto all'inglese, che chiaramente domina, è rimasto anche abbastanza il francese, si può capire, si è infilato il tedesco, ecco, che peraltro sì, è parlato da un gran numero di persone, ma fuori dalla patria poco, e questo ha cominciato a nuocere all'italiano, ma non solo come lingua di lavoro, anche negli appalti e nei concorsi si richiede di conoscere queste altre tre lingue, e questo spinge in quella direzione. È recentissimo un altro attentato, bisogna dire così, di escludere l'italiano dai brevetti industriali. Questo significa che le industrie, grandi, medie e piccole, devono provvedere a proprie spese a tradurre i propri brevetti in altre lingue, mentre chi per gli altri paesi questo non accade. Naturalmente una risposta velocissima, pare che finalmente i nostri politici recentemente abbiano preso a cuore la questione, c'è stato un attacco da parte dell'avvocatura dello Stato italiano, insomma un po' di reazione c'è negli ultimi anni, e devo dire che c'è da quando nel 2005 l'Accademia della Crusca si è impegnata molto su questo piano. Quindi continuiamo a contare su di lei, professor Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Ma invece Giuseppe Patota, una cosa che avevamo fatto molto spesso appunto con Sabatini nella rubrica di qualche tempo fa, quello dei dubbi linguistici più ricorrenti, no? Che riguardano noi, posso immaginare anche gli stranieri. Citiamone proprio qualcuno, giusto per divertirci anche un po' e ricordarli in questi pochi minuti. Giuseppe. Ah, beh, insomma, adesso qui diventa veramente difficile, nel senso che molto spesso poi si tratta di forme che vanno bene in entrambi i casi. Bisogna dire obbedire o ubbidire, è più corretto dire abito in via Condotti o abito a via Condotti. Quello è romano, è tipicamente romano, a via Condotti, a piazza, sì, qui, ecco, a piazza la piazza. Una cosa, volevo aggiungere una cosa, sì, a un'osservazione che ha fatto Giuseppe Antonelli, che diceva giustamente consultare i vocabolari e consultare le grammatiche. È vero, però io ho fatto un po' di tempo fa, è giustissimo, una piccola indagine statistica proprio nel sito internet della Società Dante Alighieri, sottoponendo agli utenti un questionario. La domanda era: quando avete un dubbio sulla lingua italiana, che cosa fate? Chiedete un parere a un'altra persona? Consultate una grammatica o consultate un vocabolario? Beh, la stragrande maggioranza degli utenti ha risposto: consulto il vocabolario. I direttori di vocabolari come hanno per esultato. Esempio, Francesco Sabatini e anche come chi, o Valeria Sabatini Della Valle, Coletti, anche come chi vi sta parlando, si sono attrezzati da questo punto di vista, perché i vocabolari oggi contengono tutto un armamentario proprio multimediale a risolvere i dubbi grammaticali. In particolare quello che io dirigo ha addirittura una sezione che si chiama, è un neologismo, grammabolario. Grammabolario, a proposito appunto di parole nuove. Giuseppe Antonelli, visto in conclusione che hai scritto anche "Ma cosa vuoi che sia", una canzone, un atto d'amore che tu canteresti verso la lingua italiana, come concludiamo? Ma c'è una canzone di Cocciante, cantata da Cocciante, non scritta da lui, che era una sorta di inno alla lingua italiana, però devo dire con toni un po' troppo retorici. Anche Valeria Della Valle biasimava questa tendenza all'enfasi che c'è un po' negli ultimi tempi nella comunicazione, dunque anche nella lingua. Ci sono tante canzoni che sono state dedicate all'Italia nel corso degli ultimi 20 anni, da tanti cantautori, si va da De Gregori a Venditti, mm-hmm, a Finardi, ma forse la più bella di tutte è "La terra dei cachi" di Elio e le Storie Tese. Italia sì, Italia no, Italia gnam, se famo tu spaghi. E mentre voi fate merenda o spaghi o quello che volete, ma sicuramente insomma immagino che l'amore per la lingua italiana, che la si usi in modo più o meno improprio, più o meno elastico ed evolutivo o involutivo, non possa sicuramente tramontare. Grazie alla lingua italiana, grazie a Valeria Della Valle, a Giuseppe Antonelli, a Francesco Sabatini, a Giuseppe Patota. Ritorneremo su un argomento così fondamentale, così importante, ma intanto da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.